Topic of our Dhamma talk today is Chittan Upasana Satipatthana, namely mindful contemplation of the mind. L'argomento del discorso di stasera è Chittan Upasana Satipatthana, cioè la contemplazione consapevole della mente. And what we shall do is we'll discuss briefly, first mention the instructions as given by the Buddha and found in the Satipatthana Sutta, and then we should briefly explain the content of these instructions, and then we'll take one example and we'll apply the instructions to the example. And the example is going to be sense desire, kama. Ok, allora prima analiseremo le istruzioni così come sono state date dal Buddha stesso nel Satipatthana Sutta. Dopodiché andremo più nel dettaglio, vedremo i contenuti delle istruzioni stesse. Poi prenderemo un esempio e vedremo l'applicazione delle istruzioni riferite a questo particolare esempio. E l'esempio sarà il desiderio sensoriale, il desiderio dei sensi. And as you know, the Buddha has given or spoken of the four establishments of mindfulness, and out of those that we have dealt already with the mindful contemplation of the body, and then we've dealt with the mindful contemplation of feelings just recently, and towards the beginning of the retreat, we discussed one aspect of Dhammanupassana, namely the hindrances. Allora, come sapete, nel Satipatthana Sutta sono indicati quattro basi della consapevolezza, quattro fondamenti, e noi abbiamo trattato del primo, cioè la contemplazione del corpo, il primo fondamento di consapevolezza, poi il secondo di recente, cioè Vedana, Nupassana, Satipatthana, la contemplazione delle sensazioni. Brevemente, all'inizio del ritiro, abbiamo affrontato il discorso invece della contemplazione degli ostacoli che rientra nel Dhamma Anupassana Satipatthana. And so in the course of the retreat during the remaining half we shall go into more details of Dhamma Anupassana. E nel corso del ritiro noi entreremo ancora più nei dettagli per quanto riguarda gli altri aspetti di Dhamma Anupassana, l'ultimo fondamento. The actual instruction as given by the Buddha for Chitta Anupassana is as follows. Allora, queste sono le effettive istruzioni date dal Buddha per quanto riguarda Chitta Anupassana. And how does a meditator abide contemplating mind as mind? Allora, e come un meditante sta a contemplare la mente come mente? Here a meditator understands mind affected by lust as mind affected by lust. Allora, qui un meditante contempla la mente influenzata dal desiderio come una mente influenzata dal desiderio. And a mind unaffected by lust that he or she understands as unaffected by lust. E comprende una mente non influenzata dal desiderio come una mente non influenzata dal desiderio. And then the same thing, one understands a mind affected by hatred as a mind affected by hatred, and a mind unaffected by hatred as unaffected by hatred. E allo stesso modo comprende una mente influenzata dall'odio come mente influenzata dall'odio, e viceversa una mente non influenzata dall'odio come una mente non influenzata dall'odio. And then along the same line a meditator understands a mind affected by a delusion as a mind affected by delusion, and a mind unaffected by delusion he or she understands as such. E allo stesso modo riconosce e comprende una mente non influenzata dall'illusione come una mente influenzata dall'illusione come mente influenzata dall'illusione, e viceversa una non influenzata dall'illusione come mente non influenzata dall'illusione. And a meditator understands a contracted mind as contracted mind and a distracted mind as distracted mind. E riconosce una mente contratta come mente contratta e una mente distratta come mente distratta. Now, up to this point, you know, we have four pairs. Allora, fino a questo punto abbiamo four pairs. Alternate, you know, altogether, eight states. Quindi otto stati in tutto. And these eight states, you know, form one group of mental states, namely of ordinary mental states. E questi formano un gruppo di stati mentali che sono stati mentali ordinari. And the out of this first group of eight states, the first are clearly opposite, so a mind affected by lust, one understands as such, a mind unaffected by lust, one understands as such. Same thing for hatred, for delusion. But then, when it comes to the contracted mind and the distracted mind, these are not necessarily opposites. Allora, per quanto riguarda le prime tre coppie di stati mentali, allora questi si configurano come due opposti, cioè una mente influenzata dall'odio e non influenzata, scusate, la prima era influenzata dal desiderio, non influenzata dal desiderio, poi lo stesso per l'odio, non odio e illusione, non illusione. Ma la quarta coppia, cioè una mente contratta e una mente distratta, questi non sono necessariamente opposti. Sì. And so the contracted mind is actually a mind that is overcome by sloth and torpor. Allora, per mente contratta si intende una mente che è come si dice, completamente avvolta, diciamo, nella pigrizia e nel torpore. E in preda alla pigrizia e al torpore. Whereas the distracted mind is not the opposite of the contracted mind, but rather it's based on on restlessness. La mente distratta non è l'opposto della mente, appunto, in preda alla sonnolenza, al torpore, ma piuttosto è una mente irrequieta. And then we have or as instructions go on, we will deal with a second group of mental states. And to say this already, these are referred to as lofty or higher mental states. E nella seconda parte delle istruzioni ci sono altri, sono indicati altri stati mentali, e questi sono raggruppati, appartengono a un gruppo di stati mentali più alti o più elevati. Now, one understands an exalted state of mind as such, and one understands an unexalted state of mind as such. Quindi uno riconosce, comprende uno stato di mentale esaltato come tale, e riconosce uno stato mentale non esaltato come tale. And one understands a surpassed mind as surpassed mind, and an unsurpassed mind as unsurpassed. How can I explain unsurpassed? Surpassed is surpassed, unsurpassed. Oh, wait, unsurpassed. You go beyond something, beyond a certain mental state, mm-hmm. and you leave behind mm-hmm. mental states that you leave behind. Quindi l'altra coppia è una mente in grado di andare oltre determinati stati mentali, quindi si riconosce quel tipo di mente, e si riconosce il tipo di mente che non ha quella qualità, cioè che non riesce ad andare oltre determinati stati mentali. And one understands a concentrated mind as concentrated mind, and an unconcentrated mind as unconcentrated. Poi uno riconosce una mente concentrata come tale e una mente non concentrata come tale. And one understands a liberated mind as liberated, and an unliberated mind as unliberated. Poi uno riconosce o conosce una mente liberata come tale e una mente non liberata come tale. So here, we have in this passage, there's mention of altogether 16 different states. Quindi in questo brano sono indicati un totale di 16 diversi stati mentali. And the instructions don't stop at this point. When we take a look at the so-called refrain, or the part that is more or less identical for the main instructions, and then there it says that one should know the mind as it is rising and as it is passing away. Ma le istruzioni non finiscono qui. Il Buddha va oltre dicendo che uno deve riconoscere. Sorry, the mind while it's. That the mind is that is arising and the mind that is passing. Deve riconoscere la mente così come sorge e poi la mente quando se ne va praticamente, quando non c'è più, quando si dissolve. And so to say this already at this point, you know, this is an instruction that so then makes the meditator see the impermanence of those states of mind. E questo è un'istruzione che permette al meditante di vedere l'impermanenza di quegli stati mentali. Now, when it comes to these states of mind, the Buddha has given a very clear instruction, namely to see them and not to ignore them. Allora, per quanto riguarda questi stati mentali, il Buddha ha dato delle istruzioni molto chiare, ovvero di vederli, osservarli e di non ignorarli. And the relevant statement for this can be found in Anguttara Nikaya 5, section 39. Nell'Anguttara Nikaya 5, sezione 39, viene specificato meglio questo punto. Now, there the Buddha says, now, there are things to be abandoned with the body and not with speech. Allora, Buddha lì dice ci sono cose che vanno abbandonate con il corpo e non con la parola. And there are things to be abandoned with speech and not body. E ci sono cose che vanno abbandonate con la parola e non con il corpo. And there are things to be abandoned neither with the body nor with speech. E ci sono cose che vanno abbandonate né con il corpo né con la parola. But by insight on seeing them. Ma attraverso un insight, cioè una visione profonda nel vederli, un'intuizione profonda nell'osservarli. Now, this particular passage, of course, is longer, and so I'll just give you a gist of it. The Buddha then explains what he means by things to be abandoned with the body and not with speech. Allora, questo è un brano piuttosto lungo, ma per darvi il senso, allora il Buddha poi prosegue spiegando cos'è che va abbandonato con il corpo ma non con la parola. So, if the example that the Buddha gives is for a fellow monastic, so if a fellow monastic is doing something with the body that is improper, then and he's or the other monastics should maybe address him in a nice way, point out, oh, you're doing such and such with the body, and then kindly stop it, kindly abandon this bodily behavior. Allora, fa l'esempio di un monaco che compie un'azione con il corpo che non è appropriata, non è giusta, e gli altri monaci lo vedono e glielo fanno notare. Facendolo notare, questo monaco abbandona questo comportamento errato fatto con il corpo. No, the same point applied to our modern life, let's say parents who would never have children. Among them is one naughty boy who is in the habit of poking his nose. And so the instruction then would be to approach this naughty son nicely and then to request him to stop poking his nose. Facciamo un esempio più vicino ai tempi nostri. Allora, dei genitori che hanno figli, e uno di questi figli ha l'abitudine di mettersi le dita nel naso. Allora il genitore si avvicinerà a questo bambino e si rivolgerà al bambino invitandolo o comunque dandogli istruzioni affinché smetta di fare questo, di mettere in atto questo comportamento. And they're not going to give him some instructions on how to change his speech. Non gli daranno delle istruzioni su come cambiare il suo linguaggio. Once, if the problem is with the speech, and the Buddha says, then that particular behavior, verbal behavior, should be abandoned, should be pointed out by others and then abandoned. Ma piuttosto se il comportamento errato riguarda la parola, allora quel comportamento va individuato e è corretto da parte degli altri. So, when it comes to unbefitting behavior by body and speech, the advice given by the Buddha is, abandon it. Quindi quando si tratta di un comportamento non sano, diciamo, non giusto del corpo e della parola, le istruzioni del Buddha sono quelle di abbandonarlo. And replace it by a more befitting behavior. E di sostituirlo con un comportamento più adatto. And what do you think with regard to mental states? Was the Buddha's advice to abandon them? Per quanto riguarda invece gli stati mentali, qual è il consiglio del Buddha? Quello di abbandonarli? Right away. To see them. Ah, there we go. And so we've got a major change in instruction here. First of all, to see them. And the abandoning comes through the seeing. E quindi qui c'è proprio un cambiamento di istruzioni, perché qui si dice, rispetto agli stati mentali, di osservarli, di vederli. E l'abbandonare viene attraverso questo atto di vedere. And among the things that we need to see with insight are things like lust and malice and delusion and then selfishness and so on. È quello che dobbiamo vedere attraverso la consapevolezza è appunto la brama o il desiderio, la malevolenza, l'illusione. What was the last that you said? And the last one was envy. L'invidia o la gelosia. Selfishness is also there. Ecco, l'egoismo. No. In terms of maybe in this connection, in the German language, there is a proverb, a saying that goes like this: Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Insight is the first step towards a betterment, and that's exactly what we need to do. C'è questo modo di dire in tedesco. Che tradotto in italiano suona così: l'insight è un modo per arrivare al miglioramento. Now, when we look at these categories for the contemplation of the mind, then there are those ordinary states of mind, and then there are the lofty or higher states of mind. Allora, per quanto riguarda queste categorie degli stati mentali, allora ci sono questi stati mentali ordinari e poi ci sono quelli più elevati. And what the Buddha does with this classification system is he distinguishes between ordinary mental states that could be wholesome or unwholesome, and then he mentions the group of higher mental states which pertain either to the jhanas or vipassana. Allora, quello che fa il Buddha in questa classificazione è raggruppare quegli stati mentali ordinari, che possono essere sia salutari che non salutari, e poi nel secondo gruppo inserisce quegli stati più alti, che possono appartenere o ai jhana oppure alla vipassana. Okay. So, when it comes to states of mind or states of consciousness, and then we have ordinary states of consciousness that pertain to the sensuous sphere, kama, vajara, citta. Allora, per quanto riguarda gli stati mentali, ci sono quelli che appartengono alla sfera dei sensi, kama vachara citta. Kama vachara citta. And those covered, you know, ordinary, you know, states of mind such as seeing, hearing, smelling, tasting, sometimes wholesome, sometimes unwholesome. E sono tutti quegli stati mentali che si rifanno, si riferiscono a vedere, sentire, odorare o gustare, eccetera, e possono essere salutari o non salutari. And you know, we experience these many times. E questi noi li esperiamo molte volte. However, in the human mind has the potential, or there is a potential for the human mind, you know, to also, you know, be developed into higher states. And you know, those are the states of the jhanas and then path and fruition consciousness. Ma la mente umana ha la potenzialità di raggiungere degli stati mentali più elevati, e questi sono appunto i jhana, oppure le esperienze di coscienza del sentiero e del frutto. And in Abhidhamma, in the Abhidhamma, one distinguishes, you know, between rupa vachara cetta, so, you know, consciousness that pertains to, you know, the material, the material jhanas, and then the arupa, cittas, consciousness which pertains to, the fine material or immaterial states. Allora, l'Abhidhamma distingue tra i rupa citta, che si riferiscono agli stati mentali della materialità, della materia, e poi gli arupa citta, arupa vachara citta, che sono quelli che invece si riferiscono all'immaterialità. Fine material states. Agli stati di materialità fine. And then the whole path consciousness and certain fruition consciousness, they belong to supramundane consciousness. E poi invece la coscienza del sentiero, del frutto del sentiero, questi appartengono alle coscienze sovramondane. Okay. And these are known in Pali as locutra citta. E questi sono definite in Pali come locutra citta. Now, when we will briefly discuss the ordinary states of mind, just for general knowledge, and then we'll go on to discuss the higher states of the mind, also for general knowledge, and then we'll take the case of sense pleasure. Allora, parleremo adesso degli stati mentali ordinari, così per conoscerli un po' meglio, poi parleremo di quelli più elevati, e infine prenderemo l'esempio di un piacere sensoriale. So, among the ordinary states we have states that are, you know, rooted in greed, hatred and delusion, namely the three unwholesome roots, and then their opposites, namely that are rooted in non-greed, non-hatred and non-delusion. Allora, per quanto riguarda gli stati ordinari, ci sono quelli che hanno le proprie radici nell'avidità, nella rabbia, nell'illusione, e poi i loro contrari, cioè quegli stati che sono hanno come radici la non avidità, non rabbia e non illusione. And then apart from these six, the mind, the contracted mind is being mentioned, which is sloth and torpor, and then the distracted mind, which is restlessness and remorse. And these two come under the heading of delusion. E poi ci sono gli altri due stati, cioè la mente contratta, che si riferisce alla pigrizia e al torpore, e poi la mente distratta, che si riferisce invece alla irrepietezza e al rimorso, e questi stati rientrano invece nella categoria dell'illusione. Now, when it comes to the expression a mind that is without, let's say, lust, this expression can have different meanings. Allora, quando si arriva all'espressione una mente che è senza Brahma, allora questo può avere diversi significati. Now, it could mean that the mind is temporarily free from lust. Può significare che la mente è temporaneamente libera dalla Brahma. And that it could also mean that the mind is overflowing with the opposite, aloba. Oppure può essere una mente che è piena del contrario, cioè aloba. And or atanha would be more precise. Atanha sarebbe più preciso. And then it could be, the statement could also be interpreted in an absolute sense, that there is absolutely no more lust in the mind. Oppure può essere interpretata in un senso assoluto, che significa che non c'è più assolutamente nessun desiderio, nessuna brama nella mente. Now, a mind in which lust is not present anymore is at least the mind of an anagami. Allora, una mente priva di questo desiderio è come minimo la mente di un anagami. And then when we say a mind that is without lust, then it can also be meant in a relative sense, namely there's a relative absence of lust. Poi una mente priva di desiderio può anche essere intesa in senso relativo, e cioè una mente che è relativamente priva di desiderio o brahma. Now, as for the last two, namely the contracted mind and the distracted mind, both of these states are, well, or hinder the development in one's meditation. And thus one needs to be aware of these two states and then see them and abandon them. Per quanto riguarda gli ultimi due stati, cioè la mente contratta e la mente distratta, questi possono essere un forte ostacolo per il progresso della propria pratica, quindi vanno notati e abbandonati. And when we observe an object of observation, and then we should do this not with a contracted mind, but with a mind that is opening up, that is fresh and energetic. Quando osserviamo un oggetto, dovremmo farlo con una mente non contratta, ma piuttosto una mente che si apre, una mente fresca, una mente energica. And so, again, when we observe some predominant object, we don't want to do this with a distracted mind, because it will make the seeing very difficult, but rather we want a mind that is calm. E allo stesso modo, quando osserviamo un oggetto predominante, non vogliamo osservarlo con una mente distratta, perché questo ci impedirà di vedere bene l'oggetto. Dovremmo avere piuttosto una mente calma. Now, briefly let's deal with those higher states of mind, and the first pair consists of the exalted states or great states and the absence. Adesso trattiamo invece gli stati mentali più elevati. La prima coppia riguarda lo stato esaltato e lo stato della mente che non è esaltato. Okay. And this expression, exalted mind, is used in the connection with the practice of the Brahmaviharas, so the divine abodes. E questo termine, quindi una mente esaltata, è usato in riferimento alla pratica dei Brahmavihara, cioè delle quattro dimore divine. And so, this practice covers then the contemplation of loving kindness, of compassion, of sympathetic joy and equanimity. E quindi queste pratiche, questi stati mentali collegati si riferiscono alla pratica della gentilezza amorevole, della compassione, della gioia compartecipe e dell'equanimità. And certainly clearly, oh, the practice of metta, karuna, mudita and upekkha comes under samatha bhavana, namely mental development through calm. E queste quattro pratiche, queste quattro contemplazioni, quindi metta, karuna, mudita e upekkha, yes, rientrano nella pratica di samatha bhavana. E quindi è una pratica di calma mentale. Now, when it comes to the next pair, namely the surpassed mind and the unsurpassed mind, now this is an expression, the surpassed mind is an expression that is used in the connection with the jhanas. Allora, invece questa è la seconda coppia che ha un aggettivo un po' intraducibile, cioè la mente che praticamente riesce ad andare oltre stati mentali negativi, è l'opposto di questa. Questo tipo di stato mentale si riferisce invece alle pratiche dei jhana. So, if we go by the fivefold jhana system or way of reckoning the jhanas, then in the first satna jhana there will be the following jhanic factors, namely initial application of the mind, vitaka, then sustained application of the mind, vichara, and then a joint rapture, piti, and then sukha, happiness, and concentration, ikagata. I'll repeat. Allora, se seguiamo la divisione in cinque jhana, allora, gli stati mentali che vengono con raggiungimento del primo jhana sono, allora, l'applicazione della mente, una applicazione sostenuta della mente, vichara. Poi vichara, poi il terzo è piti, cioè la gioia o il rapimento, poi c'è la felicità, il quarto, il quinto è una mente focalizzata su un punto. Questi sono i cinque stati che vengono col primo jhana. Or a meditator will practice the first jhana and will experience these five jhanic factors, and sooner or later he or she will realize that the very first jhanic factor of vitakka, the initial application of the mind, is just too much, and that one needs to go beyond that vitakka. Hence one surpasses vitakka. Allora, quando uno pratica il primo jhana e quindi fa esperienza di questi cinque stati mentali, si accorge dopo un po' che il primo di questi cinque stati, cioè vitakka, l'applicazione iniziale della mente, è di troppo e quindi lo lascia perdere. In questo senso lo lascia indietro. So one leaves it behind, and thus the arising of the second jhana becomes possible. And in the second jhana, we then only have four jhanic factors, namely the sustained application of the mind, then the joint rapture, happiness, and one-pointedness of mind. E quindi questo permette di raggiungere il secondo jhana, e nel secondo jhana abbiamo solo quattro stati mentali, e cioè l'applicazione sostenuta della mente, la gioia o rapimento, la felicità e la mente focalizzata. And so, then when we develop the second jhana, after a while we realize that the sustained application of the mind, vichara, is also not that satisfactory. And then one, as one moves on in one's practice, that second jhanic factor falls away and only three remain, namely joy, happiness and one-pointedness. Allora, andando avanti con la pratica, raggiungendo il terzo jhana, ci si accorge che il secondo stato jhanico, quello di vichara, cioè della mente sostenuta, non è più necessario, non è più soddisfacente, e quindi ne rimangono solo tre, cioè la gioia, la felicità e la mente focalizzata. And then in the case of the fourth jhana, or in the end, in the end, well, the joy also falls away, and then only happiness and certain one-pointedness remain. Alla fine si lascia andare anche la gioia e rimangono solo due fattori jhanici, cioè la felicità e la mente focalizzata su un punto. And at that point, one can not go any further. And this example is for, to make this very clear, for the metta practice. A quel punto il meditante non può andare oltre, e questo si riferisce alla pratica di metta. And so it ends with this one-pointedness of mind, and this factor then is becomes the unsurpassable factor. E si finisce quindi con questa mente completamente concentrata, focalizzata su un punto, e questo allora diventa quello stato che abbiamo detto non superabile, cioè che lascia indietro tutti gli altri, che è capace di andare oltre gli altri. Now, having explained all of these, the term unsurpassable also comes up in the connection with the full realization of the Dhamma, and there it includes the reviewing knowledge after realization. Allora, per quanto riguarda questo termine di unsurpassable, non lo tradurrò, questo entra di nuovo in gioco quando si parla della realizzazione del Dhamma, e in quel contesto one reviews of what certain defilements have been abandoned and eradicated from the mind, and which ones remain. Allora, a quel punto uno rivede tutti gli inquinanti mentali che sono stati lasciati indietro e purificati dalla mente, e quello che invece rimane. Now, hence the term unsurpassable occurs both in the samatha practice as well as in vipassana practice. Quindi in questo senso questo termine o questo stato mentale si ha sia nella pratica di samatha sia in quella di vipassana. Now, when it comes to the expression to know the concentrated mind as concentrated mind, and then a concentrated mind certainly can arise in the context of the jhana practice, but it can also arise in the context of our satipatthana practice. Per quanto riguarda invece lo stato di una mente concentrata, allora questa può sorgere sia nella pratica jhanica o di samatha, e sia nella nostra pratica di satipatthana. And when one realizes that the mind is certainly peaceful and well united, then concentration is there. Quando uno si accorge che la mente è tranquilla ed è unificata, allora sa che c'è la concentrazione. Now, when it comes to the last pair, the liberated mind and the non-liberated mind, this term can or applies again to both fields, namely samatha as well as vipassana practice. Per quanto riguarda lo stato della mente liberata, anche questo si riferisce sia al campo della samatha che a quello di vipassana. And the commentators also interpret it sometimes as a temporary absence of mental defilements. E i commentatori la indicano come uno stato in cui c'è un'assenza temporanea degli inquinanti mentali. But also in an absolute sense it is being used as total freedom from defilements. Ma è usato anche in senso assoluto come una totale liberazione dai difetti mentali, una totale assenza dei difetti mentali. Now, what we will do next is we shall look at sense desire as one example of an ordinary state of mind, and how to know it and to know its nature and how to deal with it. Allora, quello che faremo adesso è prendere il desiderio sensoriale e vedere questo come uno stato mentale ordinario, saperlo riconoscere e sapere come trattarlo, come affrontarlo. So, when we follow the basic instruction of the Satipatthana Sutta, then it is said when one should know a mind that is affected by sense desire as affected by sense desire. Allora, seguendo le istruzioni nel Satipatthana, noi dovremmo riconoscere una mente influenzata dal desiderio sensoriale come una mente influenzata dal desiderio sensoriale. And as we've seen earlier on, when such a mind is present, and then we don't just abandon that state not right away, but rather we observe it with insight. Allora, come abbiamo detto prima, quando riconosciamo che è presente questo stato mentale, noi non lo abbandoniamo subito, ma piuttosto lo osserviamo con un insight. And we try to observe it without a strong reaction, without a reactivity of the mind. Cerchiamo di osservarlo senza una reazione forte, senza una mente reattiva. And not only do we not suppress or abandon that mental state, but we also don't act on it. Quindi non solo noi non lo sopprimiamo, non lo abbandoniamo, ma inoltre cerchiamo di non agire sulla base di quello stato mentale. And usually what people do is they act on it. Perché di solito è quello che le persone fanno, loro agiscono sulla base dello stato mentale. And so this, if one is not careful, can lead to all sorts of consequences. E se uno non è attento, questo può portare a tutta una serie di conseguenze. And so, when only when this sense pleasure becomes extreme and really overwhelms the mind, and we have no way, or with Satipatthana we cannot handle it, only then do we maybe apply some other method, as for instance focusing the mind on some bodily object. Allora, solo quando questo desiderio dei sensi diventa estremo e prende totalmente la mente, allora, se non riusciamo attraverso il Satipatthana a affrontarlo, allora utilizzeremo degli altri mezzi, come per esempio spostare l'attenzione su un oggetto fisico. On a physical object, yes, right. Now, the contemplation of the mind has or brings about different benefits, and one of them is to see very clearly the constituents of the mind, the things that make up the mind, like the various mental states. Uno dei vantaggi di questa contemplazione della mente è che permette di vedere gli elementi costitutivi della mente, cioè gli elementi costitutivi che fanno parte di questi stati, cioè che appunto costituiscono gli stati mentali. And then when one undertakes this citta nupassana satipatthana, and then one no longer relates to the mind as sadness, or one no longer identifies suddenly with it as I or mine, and one doesn't see it as an entity, but rather as suddenly something that consists of different parts. Allora, quando uno intraprende questo citta nupassana satipatthana, allora uno non vede più la mente come, cioè non si identifica più con la mente, non la vede più come un'entità o come un io mio, ma vede invece la mente semplicemente come composta da vari costituenti, si dice, da varie parti, yeah, elementi costitutivi. And to give you an example for this, let's say if through samatha practice some jhana has arisen in the mind, then this may be a very powerful experience and one might easily identify with it. And whereas the Buddha says don't identify with it, but rather observe very carefully the different parts that make up the experience, and you see that these are all conditioned. Allora, nella pratica di samatha, durante un'esperienza di jhana, possono sorgere degli stati mentali molto forti e la persona può identificarsi con questi stati mentali. Il Buddha tuttavia istruiva di non identificarsi con essi, ma piuttosto di vederli come degli oggetti costituiti da tante altre parti. And thus this cittanupassana definitely leads to a sense of detachment and disidentification from the mind. Quindi questo tipo di contemplazione porta a un distacco e a una disidentificazione dalla mente. The mind and its mental states. Dalla mente e dai suoi stati mentali. And when something like sense pleasure arises in the stream of consciousness, and then one doesn't identify with it, one doesn't get carried away by it, but rather one sees it as just another mental object. Quindi quando sorge un desiderio sensoriale nel flusso della coscienza, uno non si identifica con esso, ma lo vede semplicemente come il sorgere di un oggetto. And when one keeps observing it, then one might realize after a while that this particular mental state of sense pleasure undergoes changes. E quando uno continua a osservare questo oggetto, vede che è uno stato mentale che continuamente è sottoposto a dei cambiamenti. So one might see it arising, and maybe at first it's quite weak, and then gradually gets in the absence of mindfulness it gets stronger and stronger, and eventually after maybe longer time it passes away. Quindi uno lo vede sorgere, lo vede diventare sempre più forte con il tempo, e poi prima o poi sparisce. No. In the context of sensual pleasure, the Buddha has said the following: Natti aragasamo agi. There is no fire like passion. Allora, nel contesto del desiderio sensoriale, il Buddha ha detto queste parole, che significano che non esiste nessun fuoco così come la passione. And so with regard to ill will, he has said, there's no grip like ill will. E invece, in riferimento alla malevolenza, ha detto, grip, non c'è nessuna morsa forte come la malevolenza. And so when ill will has arisen in the mind and it becomes quite strong, then it will have a strong grip on the mind and it's going to be very difficult to let go of it. Quindi quando la malevolenza sorge nella mente, questa sarà come una morsa, quindi terrà una presa sulla mente e sarà molto difficile liberarsene. And it was said that there's no fire like passion. So this thing gives us already a first idea of what this passion or sense pleasure is all about. E quindi quando dice che non c'è nessun fuoco come la passione, questo già ci dà un'idea di della forza di questa passione o del desiderio sensoriale. Now, when it comes to sense pleasures, kama, we have to make a distinction between subjective sensuality and objective sensuality. Allora, quando parliamo di desiderio sensoriale, dobbiamo distinguere tra la sensualità, si può dire, oggettiva e quella soggettiva, o viceversa, subjective and objective. Subjective and objective. Soggettiva e quella oggettiva. Now, the first one, the subjective sensuality, is basically the sense desire that is directed towards certain objects at the five senses. Quindi quella soggettiva è semplicemente il desiderio sensoriale dei sensi, appunto dei cinque sensi, indirizzata verso un oggetto. And whereas objective sensuality are just the objects. Invece la sensualità, sense objects. La sensualità oggettiva si riferisce solo agli oggetti dei sensi. So let's say we have a bouquet of beautiful flowers here. That would be the object. And since this bouquet of flowers is quite beautiful, it's somewhat attractive. Allora immaginiamo di avere un mazzo di fiori. Allora questo mazzo di fiori sarà l'oggetto dei sensi. E siccome è un bel mazzo di fiori, avrà la sua attrazione. And then comes a person who's looking for, craving for a beautiful bouquet of flowers and sees it, and thus you have your the subjective sensuality is there. E poi arriva una persona che vede questo mazzo di fiori e lo desidera, allora lì c'è questa sensualità soggettiva. And that subjective sensuality is then directed towards the bouquet of flowers. E quindi quella sensualità soggettiva è indirizzata verso il mazzo di fiori. La sensualità non mi piace tanto, sensorialità forse. And the problem is mostly not with the with the object, but with the sense desire itself. Quindi il problema non è tanto con l'oggetto, ma col desiderio sensoriale stesso, desiderio dei sensi stesso. Now, sense desire is one of the mental mental states. And it's quite deeply instilled in or ingrained in the mind, and it takes the third attainment to uproot it. Allora, il desiderio dei sensi è molto profondamente radicato nella mente, e è necessario raggiungere il terzo stadio dell'illuminazione per sradicarlo completamente. Now, I'll try to shorten this a little bit. And, a sense desire is a mental state that is being mentioned in a number of lists of unwholesome mental states as number one. Allora, questo desiderio sensoriale è uno stato mentale che viene indicato in numerosi elenchi di stati mentali non salutari, ed è sempre al primo posto. And so among the five hindrances, the first one is the hindrance of sense desire. È il primo nell'elenco dei cinque ostacoli. And so then among the asavas, the taints, kam asava is also the first one. E nell'elenco dei dieci asava, che sono le taints, corruptions. Sì, le corruzioni. Allora anche lì è al primo posto. Now, with regard to these to sense desire, it is said that it burns up the person in whom it arises. Allora, per quanto riguarda il desiderio dei sensi, si dice che brucia la persona dentro la quale sorge. Or that one gets eaten up by it. O che una persona viene mangiata da questo desiderio. Now, when we talk about sense, desire, and then this does not cover only the sexual desire, but rather a whole range of desires. So even desire, including things like our beautiful bouquet of flowers. Quando si parla di questo desiderio sensoriale, non ci si riferisce solo al desiderio sessuale, ma a una vasta gamma di possibilità, come anche per esempio il desiderio del nostro mazzo di fiori. And so, the Buddha has clearly stated that one needs to transcend this sense desire in order to gain Nibbana. E il Buddha ha indicato chiaramente che uno deve trascendere questo desiderio sensoriale per poter raggiungere il Nibbana. And he has said, he who has developed a desire for Nibbana, whose mind reaches the same and is no longer attached to the sensual world, is called one who is bound upstream. So, one who has developed a desire for Nibbana, colui che ha sviluppato un desiderio per il Nibbana, whose mind reaches the same, la cui mente si dirige verso lo stesso, cioè verso il Nibbana, and is no longer attached to the sensual world, e non è più attaccato al mondo sensoriale, and such a one is bound upstream. Una tale persona è destinata ad andare in su nella corrente, diciamo. Controcorrente. Upstream is contrary, yeah. A monte. Now, when it comes to the sense pleasures, then the Buddha has described them in various rather distinct ways. So he speaks of sensual pleasures like carrying a grass torch. A grass torch. So at night time, you carry a grass torch. Since it's made out of grass, it will the heat, the flame, the flames will fall onto yourself. Ok, il Buddha ha utilizzato diversi esempi per parlare di questi desideri sensoriali, e uno è quello di camminare di notte con una torcia ma fatta di paglia, per cui ovviamente la paglia infuocata ti cade addosso, insomma. And in another simile he speaks of a pit of burning coals. Oppure in un altro esempio parla di un'altra similitudine, parla di una buca piena di carboni ardenti. And again, in a different place in the Kama Sutta, he refers to the sensual pleasures as the head of a snake that you don't want to that may want to step on in order to get rid of it. That you may want to step yes. on. In un altro contesto parla dei piaceri sensoriali come la testa di un serpente che uno vuole pestare per potersene liberare. Now, when it comes to the dangers or the consequences of sensual pleasure, this is given or explained as consistent leading to anxiety, fear, restlessness, remorse. Allora, per quanto riguarda invece le conseguenze negative dei desideri sensoriali, allora questi sono dati come l'irrequietezza, la paura, restlessness, I said that, rimorso, distress. Dunque, distress sarebbe l'abbattimento, la depressione. Causing a physical ailment. O può causare un malanno fisico. It could lead to sorrow, lamentation. Può portare alla tristezza, alla lamentazione. To grief. Porta al dolore emotivo, misery, la miseria, death, e la morte. So, this is just giving you words. Now, a story for these. Not too long, and this is the everyday story. Not too long ago, was maybe last winter, the wife of some Buddhist from who is somewhat well known in Kathmandu passed away, and the husband was so over years was so attached to his wife that this hurt him a lot. Allora, questa è una storia che è avvenuta l'inverno scorso. Allora, è morta la moglie di un buddista abbastanza conosciuto a Kathmandu, e lui era così legato alla moglie che questa morte l'aveva reso molto molto triste. So, even though he was a member of the meditation center in Kathmandu, the death of his own wife did affect his mind. E anche se lui era un membro di un gruppo di meditazione lì a Kathmandu, comunque la morte di sua moglie aveva veramente influenzato la sua mente. And he walked around distressed. E lui andava in giro disperato. Or at least sad to say this. O comunque molto triste. And so, only a few months went by after the passing away of his wife, and he himself then also died. E dopo qualche mese dalla morte della moglie, lui stesso morì. Now, with maybe a little bit less attachment, there would have been less suffering. Con un po' meno attaccamento ci sarebbe stata meno sofferenza. Now, less attachment doesn't mean that you totally forget another person. Allora, meno attaccamento non significa che uno dimentica completamente l'altra persona. Now, when we undertake the mindful contemplation of the mind and in particular sensual pleasure, then we need to find out the nature of this mental state. What is it like, and what can we learn from it? How does it manifest in the mind? Allora, quando noi intraprendiamo questa contemplazione della mente, dobbiamo capire la natura di questo stato mentale, of sensual pleasures, are you talking about? Right. Quindi è lo stato mentale del desiderio sensoriale. Qual è la sua natura? Come si manifesta nella mente? And when we do this, then after a while we might then understand what the Buddha is talking about when he describes sensual pleasure as essentially being rather transient in nature, rather evanescent. Allora, facendo così si comprende meglio la descrizione che ne dava il Buddha, come di una cosa evanescente o transitoria per sua natura. So, to give you an example for this, Gianni and Domenica have just prepared the most wonderful lunch, perfect Italian food. You have the food, and half an hour later, the taste is gone. Allora, per farvi un esempio di questo, Gianni e Domenica lì hanno preparato un buonissimo pasto, io dicevo, della cucina tipica italiana, è buonissimo tutto quanto, ce l'avete lì, lo mangiate e dopo un po' di tempo il gusto è già sparito. And all that you have left is just the memory of the taste. E tutto ciò che vi rimane è solo il ricordo di quel gusto. But that is not the same as the original taste. Ma questo non è la stessa cosa, è il gusto originale. No. Also, now, in a very strong statement regarding to or related to sensual pleasures, the Buddha has said the following, namely, adena wo etta bio, which means, even though the pleasure is great, the regret is greater. Allora, in una frase piuttosto forte pronunciata dal Buddha, si dice, anche se il piacere è forte, il rimpianto sarà ancora più forte. And so, the Buddha does not deny, you know, the existence of these sensual pleasures. He knows that, you know, they are around. And he knows that they are attractive. And so he says, you know, there's a great variety of, you know, these, you know, things. Pleasures, he says, pleasures are manifold and sweet. Kama, you know, kama, citra, madura, you know, madura. Allora, il Buddha non nega l'esistenza di questi desideri sensoriali, anzi dice che sono presenti, sa che sono attraenti e che ce ne sono tanti. And those sensual pleasures oftentimes are, you know, even of very little taste. E dice che questi piaceri sensoriali a volte sono di poco gusto, cioè hanno poco gusto. And maybe you see some, you know, beautiful, you know, painting by, you know, Picasso in a museum or so. You enjoy it for 5 minutes, then you watch some, or you look at some other, you know, paintings. Then you leave the museum, and then later on, the experience is basically gone. Allora, per esempio, andate in un museo, vedete un quadro di Picasso, godete di questo quadro per qualche minuto, poi passate ad un altro quadro, poi addirittura uscite dal museo e questa esperienza è già passata. And so, the problem with these certain sense of, you know, pleasures is that there's a tendency to, you know, want more and more and more of them. Il problema di questi piaceri dei sensi è che c'è la tendenza a volerne sempre di più. And this then the Buddha has described in Dhammapada verse 148 as follows. Nel Dhammapada, verso 148, il Buddha lo descrive nel modo seguente. Like one who picks and chooses flowers, a man or woman who has the mind attached to sensual pleasures and is insatiate in them is overpowered by death. Allora, così come uno che raccoglie fiori, un uomo o una donna che sono presi da questi desideri sensoriali and is insatiate, sono insaziabili fino alla morte. Yes, is overpowered by death. E sono, come dire, posseduti, insomma, dalla morte, cioè overpowered. Sopraffatti. And so, you know, so to give an obvious example, if you have a liking for, you know, drinking, you know, white wine or red wine, you know, then, you know, you might start with just one glass, and then you like it so much and you think, oh well, one glass is not enough, so what about a second one, and then what about a third one, and by the end of the night you've finished maybe, you know, 6 bottles. Allora, per fare un altro esempio, mettiamo che vi piace il vino bianco, il vino rosso. Allora, cominciate con un bicchiere, poi dite, ma un bicchiere è poco, insomma, poi ne bevete due, poi dite, ma sì, ancora uno, tre, quattro, e alla fine della serata ne avete bevuti 6 bottiglie. And this just reminds me of a worker at the Burmese temple, government temple in Lumbini, and so, you know, this man, he's got a duty there, day duty, night duty, and he very much likes alcohol, and one night he seems to be drinking quite regularly, and one night apparently he overdid it, and the next morning, when people went asking for him because they needed him to do something, well, he wouldn't respond. And then he was lying on his bed, and he was not breathing, so it seemed, and so people thought he was dead. Allora, questo mi ricordo di un uomo a Lumbini che lavorava nel tempio governativo di Lumbini, ed era uno a cui piaceva molto bere, e una sera ha bevuto un po' più del solito e le persone sono andate a cercarlo, non lo trovavano, poi l'hanno trovato a letto e sembrava che non respirasse, quindi sembrava morto. So, they then put him into some a taxi and shipped him over to the local health post, and there it became obvious that he had just drunken too much, and he lost his he went unconscious. E quindi l'hanno messo in un taxi, l'hanno portato in un vicino ospedale e lì era chiaro che insomma aveva semplicemente bevuto troppo ed era svenuto, cioè aveva perso conoscenza. So of course everyone was delighted that he hadn't passed away, but he himself, when asked later on what happened, was somewhat ashamed or embarrassed to admit that. Ovviamente tutti erano contenti che fosse ancora vivo, ma lui poi, quando le persone gli chiedevano cosa era successo, si sentiva imbarazzato, si vergognava di dire il vero motivo di questo episodio. Now another problem with these sensual pleasures is that, let's say, if one indulges in them frequently, sooner or later one might get bored with them, and then the mind starts to look for something else, something new, something unusual. Quindi un altro problema con questi piaceri dei sensi è che quando uno si lascia andare esagera con questi piaceri, a un certo punto si annoia e deve cercare qualcosa che sia nuovo, che sia più stimolante, che lo interessi di più. The Buddha has said, not by a shower of coins can sensual desires be saturated. Il Buddha ha detto che non basta una doccia di monete per soddisfare questo desiderio dei sensi. Because there's always some new desire. Perché c'è sempre un nuovo desiderio. And so like what parents are doing, some parents are doing with children, whatever the children want, they buy for them, and then it never ends because the children always want something, something more. È quello che succede a alcuni genitori coi figli, che continuano a comprargli delle cose nuove. E ovviamente questa cosa non ha fine, perché il bambino vorrà sempre qualcosa di nuovo. So the Buddha says sensual desires give little pleasure and are fraught with evil consequences. Il Buddha ha detto i piaceri sensoriali portano pochi piaceri e sono contaminati. Evil consequences. Sono pieni di conseguenze malvagie, negative. And knowing this, the wise man or woman does not find delight even in the pleasures of the devas. E sapendo ciò, un uomo o una donna non cerca piacere, o non cerca delizia, diciamo, neanche nei piaceri dei deva. But rather rejoices in the cessation of craving, which is nibbana. Ma piuttosto gioisce nella cessazione della brama, che è il nibbana. Now, another problem with these sensual pleasures is that oftentimes they can become the cause for a quarrel at home, or for some dispute in the community, or even for a war among nations. È un altro problema con questi piaceri sensoriali, che possono essere causa di un litigio tra persone, o dissidi all'interno di una comunità, o addirittura la causa di guerre, di una guerra tra due nazioni. So, when it comes to sensual pleasures, how do we deal with them? First of all, as discussed, we try to be mindful of them. Quindi quando sorge un desiderio sensoriale, come l'affrontiamo? Innanzitutto, come abbiamo detto, dobbiamo esserne consapevoli. And then on top of this, we try to avoid the arising of sensual pleasures in the first place by restraining the senses. Poi cerchiamo di evitare il sorgere di questi piaceri sensoriali controllando i sensi. And once the sensual pleasures have arisen in the mind, then through mindfulness we observe them and try to abandon them. Poi quando invece un piacere sensoriale è sorto nella mente, allora con consapevolezza lo osserviamo e cerchiamo di abbandonarlo. And from the point of view of an arahant or an anagami, in whom sensual pleasure, the mental defilement of sensual pleasure has been already totally eradicated, the person may be seeing or hearing or smelling some interest desirable object and yet not react to it at all. E nel caso di un arahant o di un anagami, dove i piaceri sensoriali sono stati sradicati completamente, allora questa persona potrebbe sentire, vedere o gustare una cosa piacevole e non avere nessuna reazione a riguardo. And the Buddha, what the Buddha is trying to point out as part of his teachings is that apart, no doubt these sensual pleasures exist, and no doubt they are a form of pleasures, but they're dangerous. Allora, quello che vuole indicare il Buddha attraverso i suoi insegnamenti è che indubbiamente ci sono questi piaceri sensoriali, indubbiamente dangerous. Sono so no doubt they exist, no doubt but they are dangerous. Sì, ma il problema è che sono pericolosi. And so, the Buddha makes it clear that other forms of pleasures are available, and those come in the form of the practice, in the form of restraint of the senses, in the form of keeping the precepts and the purity of the mind, and then in the form of the jhanas, in the course of vipassana practice, and eventually, the highest pleasure is that of nibbana. Allora, il Buddha però dice molto chiaramente che esistono altri tipi di piaceri e questi vengono con il controllo dei sensi, con il rispetto dei precetti, sì, poi con la pratica dei jhana. E poi attraverso anche la pratica di vipassana con i vari insights, e ovviamente il piacere più grande è quello del nibbana. Now, very helpful in this certain context is, and with this will end, is a very short sutta known as the Kama Sutta from the Sutta Nipata. Allora, c'è un sutta molto breve ma interessante che è il Kama Sutta, Sensual Pleasure to be Avoided, che si intitola un desiderio sensoriale che va evitato. If he or she who desires sensual pleasures is successful, the person will certainly be gratified. Allora, se la persona che desidera ha successo, sicuramente sarà gratificata. Having obtained what a mortal wishes for. Avendo ottenuto ciò che un mortale vuole. Then, this was verse 766. Questo è il verso 766. Then, the next verse, but if those sensual pleasures are denied to the person who desires and wishes for them, then he or she will suffer as one pierced with darts. Ma se quei desideri sono negati, allora questa persona che li ha desiderati soffrirà come soffrirà quanto una persona che è conficcato di frecce. Now, he or she who avoids sensual pleasures as one would avoid crushing the head of a snake with one's foot, such a one, being mindful, will conquer one's desire. Quindi chi evita i desideri dei sensi, così come uno evita di schiacciare la testa di un serpente, allora questa persona, being mindful, essendo consapevole, will conquer one's desire. Conquista i propri desideri. And the next verse, one who desires different sense objects. Il verso successivo, uno che desidera diversi oggetti sensoriali, such as estates, gardens, come delle proprietà, dei giardini, gold, money, horses, oro, soldi, cavalli, servants, relations, servi e relazioni, passions will overpower him or her. Allora, le passioni di nuovo lo, come avevamo detto, overpower, lo sopraffaranno, avranno sopravvento su di lui. Dangers will crush him or her, and pain will follow the person as water leaks into a wrecked ship. Okay, sorry. Dangers will crush the person. Person. Quindi and i pericoli schiacceranno la persona. And pain will follow, you know, the person as water leaks into a wrecked ship. E il dolore seguirà la persona così come l'acqua entra in una nave che affonda. And let us conclude the Dhamma talk with the last verse, namely, therefore let one always be mindful and avoid sensual pleasures. Quindi che una persona possa sempre essere consapevole e che possa evitare i piaceri dei sensi. Having abandoned them, let him or her cross the flood of defilements. Avendoli abbandonati, che possa attraversare il flusso degli inquinanti mentali. And go to the further shore. E andare sull'altra sponda, raggiungere l'altra sponda. And the other shore, of course, is Nibbana. E l'altra sponda ovviamente è il Nibbana. Okay, may this be so. Che possa essere così. Okay. Any questions or comments, but only briefly. Domande o commenti, ma molto brevi. Yes. Which sense desire is the most difficult to conquer? Quindi Marco chiede quale tra i piaceri sensoriali è quello più difficile da conquistare, insomma, da superare, da vincere. Ok, vincere. By your question, you mean, you know, which is the sense desire for a particular object? Yes, or you know, objects, yes. For instance, the object, to see beautiful things, to hear sweet sounds. Oh, you mean, so you mean seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Yeah. Touching and thinking. The most difficult one to overcome. Yeah. I'm not quite sure. Oh, no, let's leave that question. I'll have to think about it a little bit and maybe also check a little bit. No, if I find an answer, then I'll let you know. I know, but it's certainly it's a good question. Una buona domanda, però ci penserà un po' su e cercherà magari qualche risposta. Maybe to give you a tentative answer, it's sense desire related to the mind itself, wanting to think. Forse quello relativo alla mente stessa, cioè il desiderio di pensare. No, because so, you know, with the, you know, with the senses, with the other five senses, bodily senses, you can control them in one way or another. But the, to control the mind is most difficult. Con gli altri sensi è più facile controllare i desideri. Invece con la mente è più difficile da controllare. Okay. Then, any other questions, comments? Aniko, you have something? Nope. Well, I was just thinking it seems very radical for us non-enlightened beings to just abandon sense desire. It's maybe impossible, but I think it would be a good thing to point that it is possible to moderate and to use moderation. Yeah, sure enough. Aniko dice che è molto difficile per essere non illuminati completamente abbandonare i piaceri dei sensi. Però uno potrebbe moderare, cioè essere più moderati, no, nei loro confronti, ridurli. To balance out the picture a little bit, of course, during a retreat we try to curtail these sense pleasures as much as we can. Yeah, but outside of a retreat, of course, everyone is free to do what he or she likes to do. Sì, all'interno di un ritiro noi cerchiamo di limitare il più possibile questi piaceri dei sensi. Fuori da un ritiro ognuno è libero di fare come crede. Ok. Shall we do the metta chanting?